Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La notte successiva arrivammo nella zona del disastro e ciò che vedemmo ci avrebbe segnato per il resto della nostra vita. Non so in quanti, per quanti giorni, lavorammo senza mai fermarci. Avevamo il compito di installare le prime tende per i terremotati, per poi rifornire la popolazione di acqua, con autobotti che riempivamo senza sosta da Udine fino alla nostra zona. Perdemmo il senso del tempo e della fatica. Mi chiamo Paolo Testori, abito a Milano, sono sposato e ho due figli, uno di 28 anni e l'altro di 14. Lavoro in una casa di spedizioni ormai da oltre 30 anni. Non perdete tempo, fatelo immediatamente. Se siete davanti a un computer, andate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, e aprite quella pagina e guardate un occhio alla puntata di oggi, la puntata che sto per leggervi. Andate sulla mappa e trovate la foto del protagonista della storia di oggi, di Paolo, quello di cui avete appena sentito la voce e che sentiremo più tardi al telefono. Io ho una faccia come questa, l'ho vista poche volte in giro e sono già innamorato di Paolo. Mi ricorda qualcuno, tra l'altro. Non so se mi ricorda più Luciano, il cugino di mia madre, o Vittorio, che era il bidello del liceo scientifico Antonelli di Novara, nella sezione però non quella centrale, nel distaccamento di via Toscana. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. La puntata di oggi è una puntata a metà, è una puntata molto seria, ma anche no, perché il racconto di Paolo parla di un episodio avvenuto nel 1976, quando lui era un militare ed è andato a dare una mano insieme agli altri della sua squadra, come si dice, battaglione, come si chiama, dei militari sono andati in Friuli a dare una mano per il terremoto che ci fu esattamente il 6 di maggio del 1976. Però oggi noi vorremmo parlare dei friulani. Vorremmo trovare il modo per parlare di friulani e vorremmo far parlare loro, in realtà, perché non è che si può parlare dei friulani senza essere friulani. Questa sembra quasi un motto: non si può parlare dei friulani senza essere friulani. Potrebbe essere una roba che dice Giovanni Trapattoni. 349-238-6666. Visto che sui friulani è pieno di luoghi comuni, pieno magari, proprio pieno no, però ce ne sono tre o quattro che sono sempre i soliti, oggi io vorrei sapere dai friulani all'ascolto delle cose sul Friuli Venezia Giulia e sui friulani che non si sanno. Proprio delle chicche che nessuno sa sul territorio, su di voi, su come sono fatti i friulani, su cosa si mangia in Friuli, che non è solo San Daniele, immagino. 349-238-6666. E non sono tutti chiusi, so che sono chiusi, però quando un friulano si apre, quando si apre un friulano ti dà l'amicizia per sempre. 349-238-6666. Se in più non siete friulani, ma vi trovate in Friuli in questo momento e avete voglia di scattare una foto e mandarla al profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, io ve ne sarò grato. Per un po', non eternamente, però ve ne sarò grato. 349-238-6666, solo friulani che sfatano i luoghi comuni, o quantomeno ci dicono qualcosa di più, qualcosa che non si sa sul Friuli, perché veramente quelle due o tre cose che si sanno ormai sono troppo poche, sono troppo banali. O altrimenti una foto scattata in Friuli a qualsiasi cosa, che sia una pianta, che sia un'automobile, che sia una forma di formaggio. Ad esempio, si sa qual è il prosciutto friulano più famoso, il San Daniele, ma non si sa qual è il formaggio friulano più famoso. Lo chiedo di là, Paolino, figurati, di Senigallia. C'è il formaggio a Senigallia, Paolino? Figurati. 349-238-6666. Luoghi comuni generici, invece, ne ho chiesti prima su Facebook a proposito del luogo in cui vivete. Ci sono un sacco di veneti che ascoltano, o quantomeno che frequentano il profilo Facebook del programma. Michela: i veneti sono grandi bevitori. Federica: i veneziani non sanno guidare. Lamberto: manda la filastrocca sui veneti. Veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti. Valentina: torinesi falsi e cortesi. Però un fondo di verità c'è. Però, Valentina, non perché io sia piemontese, perché in realtà poi questo luogo comune è aperto a tutti i piemontesi, no? Quello di essere falsi e cortesi. Però non tutti sanno che in realtà la dizione completa era torinesi falsi e cortesi, italiani falsi e villani, uno. Secondo, non capisco sinceramente quale problema c'è, e non lo dico da piemontese, facciamo finta che io non sia piemontese, non capisco qual è il problema nell'essere cortese e nell'essere un po' falso. Cioè, proprio non capisco qual è il problema. Cioè, comunque la cortesia vince sempre su tutto, credo. Anche su un briciolo di mi faccio i fatti miei. Paola, devo proprio dirlo, quello sulle bresciane? Se non lo dici non sappiamo qual è. Paolo, non ci sono luoghi comuni sui cremonesi. Ma come, figurati se non ci sono luoghi comuni sui cremonesi. Ma mi irrita la spocchia con cui veniamo definiti provinciali dai milanesi. Vabbè, niente, questa roba qua è tipica, che ce l'hanno tutti con i milanesi. Non si capisce con me, tutti un po' ce l'hanno con i milanesi. Che poi si capisse chi sono i milanesi. Ma torniamo in Friuli, solo friulani, solo cose che non si sanno sul Friuli. 349-238-6666. Questa storia, invece, chi ha un po' di memoria se la ricorda bene. Da quanto tempo volevo raccontarla, questa storia, ma non ci sono mai riuscito. Solo il ricordo di quel momento mi emozionava troppo e mi bloccava. Era il maggio del 1976, ero quasi alla fine della leva militare. Stavo a Bellinzago di Novara e contavo i giorni che mi separavano dalla fine della naja. Giorni che non passavano mai. Poi, prima alla radio e poi, grazie alla TV, ci raggiunse la notizia del terremoto in Friuli. Il generale della caserma chiese 10 volontari. Voleva 5 autisti e 5 capomacchina per portare i primi soccorsi. La nostra adesione fu immediata. Partimmo la notte stessa e ci unimmo lungo la strada ad altri camion provenienti da Torino e da Milano, direzione Udine. Allora, io praticamente stavo facendo la leva militare, come si usava a fare nei 12-13 mesi che si usava allora, stavo quasi congedandomi. Quando è successo questo terremoto, io ero un caporale, non è niente di che, e servivano dei capomacchina, oltre che degli autieri che potessero spostare dei camion da portare su in Friuli. E allora mi sono fatto volontario e siamo partiti la notte stessa. La notte successiva arrivammo nella zona del disastro e ciò che vedemmo ci avrebbe segnato per il resto della nostra vita. Non so in quanti per quanti giorni lavorammo senza mai fermarci. Avevamo il compito di installare le prime tende per i terremotati, per poi rifornire la popolazione di acqua con delle autobotti che riempivamo senza sosta da Udine fino alla nostra zona. Perdemmo il senso del tempo e della fatica. Quello che vedevamo quando distribuivamo l'acqua nelle case poi ci rendeva ancora più impotenti e disperati. Dopo pochi giorni stavamo finendo tutti i nostri soldi. La cucina da campo militare non era ancora arrivata e noi andavamo avanti con un panino al giorno. Quello che ho scoperto io è che sono persone di grandissimo carattere per la tenacia, per il rispetto che hanno sia per la natura che nelle persone. Di fatto è che a distanza di anni poi il caso vuole che io ho sposato una persona che ha origini friulane. Dopo l'ennesimo carico d'acqua, ci fermammo tutti assieme in un bar. Mettemmo sul tavolo tutti i soldi che ci restavano. Bastavano per un pacchetto di sigarette e qualche cosa da mangiare. Andai al banco e ordinai. In tutto riuscimmo a prendere 6 panini, ma non ci importava. Poi tornai a sedermi con gli altri. Poco dopo il proprietario venne da noi con 2 piatti di prosciutto San Daniele, formaggi e pane a volontà. Alcune persone del bar misero sul tavolo bottiglie di vino e qualche dolce tipico del posto. Totalmente in panico al pensiero del costo di tutta quella roba, io farfugliai qualcosa al gestore. Lui mi disse invece qualcosa in friulano che non capì e poi tradusse in italiano. Disse che in una famiglia nessuno è escluso dal pranzo e per quello che stavamo facendo per loro, noi eravamo parte di quella famiglia. Mangiammo a fatica, non riuscivamo a deglutire i bocconi. Nel frattempo la gente del bar in silenzio ci guardava. Un gruppo sgangherato di militari, sporchi, disordinati con la barba incolta, che in silenzio, a testa bassa, mangiava e piangeva. La storia di Paolo è una storia molto bella ed emozionante. Noi però una volta tanto abbiamo deciso di concentrarci su un lato diverso di quella questione. Un po' meno emozionante, forse un po' più frivolo, ma forse no. I friulani. O meglio, più esattamente, i luoghi comuni sui friulani. Che se uno dovesse conoscere solo in base ai luoghi comuni, in teoria a Bologna si mangia benissimo sotto i portici, sempre circondati da gente simpaticissima. A Milano invece non facciamo altro che velocissimi aperitivi in mezzo alla nebbia. E i friulani? I friulani, secondo i luoghi comuni, sono dei cafoni avvinazzati. Ecco, vi chiedo, per piacere, non iniziate immediatamente le pratiche per denunciarmi, perché non l'ho detto io. Questa cosa l'ha detta Paolo Villaggio e l'ha detta in un libro che ha scritto tempo fa, che si intitolava Mi dichi, prontuario comico della lingua italiana. Non chiedetemi nemmeno come mi è capitato di leggere questo libro e perché, perché non vi risponderò. Lui in realtà dice anche di molto peggio, ma ve lo risparmio. Fatto sta, comunque, Paolo Villaggio ha rischiato una querela per questa storia, poi ha chiesto scusa e tutto si è risolto. Questo però dà l'opportunità per mettere insieme una serie di luoghi comuni su quel popolo, che il più della gente in realtà non sa nemmeno collocare geograficamente il Friuli. Provate a chiedere a qualcuno dove sta Udine. E a parte quelli che in Friuli ci hanno fatto il militare, è quasi sicuro che molti vi risponderanno in Veneto. E invece no, Udine è in Friuli Venezia Giulia. E ci abita della gente che viene dipinta come gente chiusa, difficile, poco ospitale e che infarcisce le frasi, per lo più pronunciate in un dialetto incomprensibile, con dei bon o delle imprecazioni. E attenzione, ancora una volta, questa cosa non la dico io. Questa cosa la dice Marco Paolini. Marco Paolini è di Belluno, invece Belluno sì, Belluno sta in Veneto. Comunque, lui dice questa cosa a proposito dell'imprecazione. L'imprecazione non c'entra più niente con la religione, c'entra con la sintassi. Nelle osterie si gioca, si discute e si bestemmia con una regolarità impressionante, tanto che i due parroci hanno rinunciato a estirparle. Dice che esula dalla missione pastorale. Ma è vero, a quel punto la bestemmia c'entra più niente con la religione, c'entra con la sintassi. Essa sostituisce tutti gli articoli e le congiunzioni tra una parola e l'altra. Cavi la bestemmia, non scorre più il discorso. Quelli che invece non imprecano vi saluteranno però con un mandi, probabilmente, che è l'equivalente del ciao. Mandi, anche se siete dell'Abruzzo, però avete un passato da teledipendenti, è un'espressione che ricorderete, era una specie di tormentone di questo comico che si chiama, immagino, Marco Milano, che tra l'altro ha scoperto non essere nemmeno del Friuli. In realtà i personaggi famosi del Friuli, i friulani, sono altri, e hanno per lo più a che fare con il calcio. Dino Zoff, Fabio Capello, Bruno Pizzul, Enzo Berzot, come ci ricorda sempre Gigi Garanzini. Se il calcio invece non fa per voi e preferite qualcosa di più antico, possiamo citare Pierpaolo Pasolini, ad esempio, o Tina Modotti, o anche quello che veniva chiamato la montagna che cammina, Primo Carnera. E poi possiamo citare il fatto che sicuramente anche voi avete un amico che una volta vi ha detto che un suo amico ha conosciuto un friulano e che all'inizio questo friulano era un po' chiuso e parlava pochissimo, magari parlava solo di lavoro e beveva. Poi però, una volta che si è aperto, una volta che si è aperto, allora sì che è cambiata la musica. Ecco, tutti i luoghi comuni. Tutti distrutti in una sola pagina dal racconto di Paolo. È magnifico perché tu chiedi dei messaggi per sfatare i luoghi comuni e arrivano esattamente quelli. Tipo, non è vero, sono i bellonesi che sono chiusi. E vabbè, e qui è perché c'ho il campanile più alto io. Il formaggio famoso è il Montasio, scrivono. Altri l'Asiago, con cui si prepara il famoso fricco di patate friulano. E poi arrivano delle cose in friulano, credo. I scout furlan ringrazian de cor i sofradei. Ah no, scout è scout. Perdonatemi, però non è che penso che una roba che è scritta in friulano sia scout. I fradei scout che han dat una man a tirar sul Friul. Ho suonato con la fanfara della brigata alpina Giulia, che in Friuli era un'istituzione. E poi ancora, anch'io ho fatto il soldato in Friuli nel 77. Gente stupenda, la frase che spiccava nei bar era Fevelait furlan che leonor e non vergogni. Massimo, non so cosa voglia dire, ma probabilmente Paolo sa tradurmela. Pronto Paolo? Sì, pronto. Ciao, come stai? Bene, come state voi? Mi dai del voi oppure... No, voi, perché pensavo anche a tutta Margherita, la redazione, che è stata molto gentile. Margherita sta benone, se non ci fosse lei probabilmente gli uomini di questo programma sarebbero già morti tutti quanti. Senti Paolo... Credo che hai detto una verità. Innanzitutto grazie per la tua foto che è straordinaria. Come te la sei scattata questa foto? In ufficio, taci, mi vergogno a dirlo, però una collega è riuscita a fare una fotografia col BlackBerry. E non è che poteva cambiare con un fotografo di professione. No, certo. No, perché hai una fissità nei tuoi occhi che fa quasi paura, devo dire. Fortunatamente la tua voce sfata un po' il mito così del maniaco. È abbastanza inquietante, vero? Senti, cosa ti ricordi, oltre a questo episodio bellissimo del bar in cui vi offrono da mangiare, d'altro, sì, del Friuli, che non sia veramente un luogo comune sul fatto che sono persone straordinarie? Cioè, qualche dettaglio, qualche piccola storia, qualche scheggia di memoria che ti è rimasta attaccata di 30 e pass 35 anni fa ormai? Sì, ma diciamo che sono persone, questi qui, almeno quello che abbiamo incontrato noi in quel momento particolare, è naturalmente qualcosa che forse esula da tutti i giorni, perché in quel momento lì viene fuori proprio la persona. Noi ci siamo trovati di fronte a una realtà molto cruda, ma con persone che hanno reagito subito. Luoghi comuni ce ne possono essere tantissimi, però io ho trovato un grande cuore di queste persone e soprattutto una grandissima ospitalità, una voglia di fare. Quanto vi siete fermati, scusami Paolo? Purtroppo, cioè, non dovrei dire questa cosa perché ho finito il militare, ma ormai da 36 anni. Ma praticamente noi ci siamo fermati sui 15 giorni perché sì, si sono dimenticati di noi. Cioè, noi dovevamo portare il primo aiuto, sì, e siccome era considerato, tra virgolette, un terreno molto disastrato, dovevamo fermarci solo 5-6 giorni. Ma si sono dimenticati, praticamente la ragione per la quale noi non riuscivamo più a mangiare, perché non avevamo più niente, né denaro né un riferimento con un... la cucina a campo, che ma di quindi solito viene... a un certo punto siete tornati indietro semplicemente di vostra no, volontà? Praticamente siamo stati, tra virgolette, presi da un capitano che per sbaglio, dopo 14-15 giorni, vedendoci che sembravamo quasi l'armata Brancaleone conciati da buttar via, ci ha chiesto cosa facevamo così conciati. Sembra la storia di Rigoni Stern, del rientro dal Don, detta così. Sì, ma era, in effetti è stata così, perché ti dirò una cosa: tu parlavi prima degli alpini. Allora, io ho visto degli alpini che si sono congedati. Per chi non lo sapesse, quando tu finisci il militare, tu puoi andare a casa e diventi un civile. Ecco. Sì. La mattina io li ho visti vestiti da militare, il giorno dopo erano in Borghese che stavano lavorando ancora tra le macerie aiutando queste persone qua. Quindi veramente gli alpini sono stati, direi, esagerati. E in quel tourbillon, in quella ressa, insomma, nessuno faceva caso agli altri, dovevi solo lavorare e basta. Immagino. Senti Paolo, tu hai sposato una friulana alla fine? Praticamente da parte di madre sì, sono stato, tra virgolette, adottato. Io sono sposato dal 1980, 32 anni quest'anno facciamo di matrimonio, e praticamente dalla parte di mia moglie. Siete di là. Ma siete tornati in Friuli o sei tornato tu a visitarlo dopo? Guarda, io sono tornato in Friuli perché i parenti di mia moglie sono in un paese che è fantastico, che è Aquileia. Ah, è certo. Che è famosa bellissimo per questa pianta ottagonale, no? Ha una pianta romana, una pianta urbana romana. Mi sto dicendo una cosa che adesso sicuramente mi massacreranno. È un porto romano, uno dei porti romani più importanti assolutamente che ha avuto l'intero romano proprio. Paolo, io purtroppo devo salutarti perché devo mandare la borsa, però ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera, il racconto e la tua foto. Davvero, ringrazio la tua collega. Ciao, buona giornata. Ciao Paolo, grazie. È veramente molto bella l'illustrazione di oggi che racconta la storia di Paolo e che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. L'unico problema è che non abbiamo il nome dell'autore, uno degli studenti del secondo e terzo anno del corso di illustrazione dello IED di Milano. Se sei all'ascolto, o se ti capiterà di esserlo, scrivicelo magari su Facebook. Matteo Caccia, io sono qui. C'è un uomo, un omone tra l'altro, vestito di un verde militare che è più un giallo, che mangia una fetta di pane con del salame in un'osteria. Sullo sfondo si vedono delle sagome grigie che lo osservano e lui piange, gli scende una lacrima. E così, a guardarlo, ricorda un po' l'idea e l'immagine che si ha di Primo Carnera. Ma vi prego, se siete già lì sul sito a vedere l'illustrazione, andate a vedere la foto di Paolo, perché in qualche modo, così come questo episodio gli ha segnato la vita, questa foto probabilmente segnerà la vostra. 349-238-6666. Allora, mi dicono che la cosa che ho letto prima significa non so più quale, in friulano vuol dire parlar friulano è onore e non vergogna. Massimo. Poi mi scrivono, il Friuli è la parrocchia d'Italia, che non so cosa voglia dire, non sapevo, e Mandi mi scrive, significa mani di Dio, quindi sarà un saluto tipo ti lascio nelle mani di Dio, che è tipo addio, arrivederci, addio, no, sarà ti lascio nelle mani Sono friulano di grado, il Friuli è una terra di confine. Si ha spesso la sensazione di essere al termine di una storia. È un posto che si lascia scoprire con il tempo. Michele è invece uno che non è friulano ma che ci vive. Vivo qui da un sacco di tempo, faccio il medico, sono siciliano. Il Friuli è come dovrebbe essere l'Italia. È come l'Italia di 30 anni fa. Adoro questa terra e il senso civico di questa gente. E poi ovviamente il friulano che scrive, Maurizio da Udine, i friulani sono un popolo di presuntuosi. Però d'altra parte nessuno è profeta, no, non c'entra, nessuno è profeta in patria, non c'entra in questo caso, semplicemente a nessuno piace più o meno il luogo da cui si arriva. Velocemente ho fatto una ricerca perché non mi ricordavo i numeri del terremoto del Friuli, sarà che avevo un anno quando è successo, ma questo non mi giustifica ovviamente, perché bisogna sempre informarsi anche quando le cose sono successe, quando sei nato, magari prima, meglio ancora. Le zone più colpite furono colpite da una scossa del decimo grado della scala Mercalli. Investì il terremoto 77 comuni italiani, ripeto, era il 6 maggio del 76, e fece solo in Italia 989 morti e oltre 45.000 senza tetto. Il governo regionale del Friuli Venezia Giulia, grazie ad un'attenta e efficiente gestione delle risorse, poté nell'arco di 10 anni ricostruire interi paesi. E poi c'è un pezzo, ho trovato un pezzo che è un pezzo di articolo scritto da Luigi Offeddu, che era l'inviato del Corriere della Sera, scritto nel 1998, cioè quindi un bel po' di anni dopo, quando a Gemona c'era stata un'altra piccola scossa. Lui dice: gruppi di turisti fotografano il Duomo e passeggiano sotto i portici di via Bini, Duomo e portici che sembrano così come erano prima del 6 maggio del 76 e che invece il terremoto aveva frantumato. La gente ha ricostruito pezzo per pezzo secondo il procedimento chiamato anastilosi, cioè raccogliere ogni pietra, numerarla, ricollocarla al suo posto. Ancora oggi su alcune pietre dei portici si legge un numero, ma quel numero, insieme a uno spezzone della chiesa della Madonna delle Grazie, è l'unica traccia che ricordi il passaggio dell'orco per definire il terremoto. 349-238-6666. Visto che parlando con Paolo mi è venuto in mente Ritorno sul Don di Mario Rigoni Stern, e visto che soprattutto l'episodio che ha raccontato, mi ha raccontato un episodio che avevo letto in un romanzo di Mario Rigoni Stern, che era Il sergente nella neve, voglio leggervene un pezzo. Lui sta tornando, chiaramente la ritirata dalla Russia, e a piedi insieme a pochi altri si trova in mezzo alla neve in un villaggio dove vengono i russi, gli stanno sparando addosso e ha una gran fame. Saremo in tutto una ventina. Che facciamo qui da soli? Non abbiamo quasi più munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo ordini. Se avessimo almeno munizioni. Mi sento anche che ho fame e il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato, una pallottola missibile vicino. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta di un'isba. Entro. Vi sono dei soldati russi, là. Dei prigionieri? No, sono armati. Con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune. E mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto. Lo riempie di latte e miglio con un mestolo, dalla zuppiera di tutti, e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata. Spasiba, dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me come per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve esserci stata. Si è creato un caso perché non si riesce a trovare la foto di Paolo sul sito di Radio 24, perché richiede semplicemente due passaggi. Quando aprite la pagina di Voi Siete Qui, trovate una immagine, il cosiddetto mappa. Cliccate sulla mappa e lì vi esce una mappa con tutti dei puntini blu, che sono tutte le storie che sono arrivate dal 5 di settembre ad oggi. E trovate l'ultima, è quella di oggi, quella di Paolo. Trovate un pezzo della storia e soprattutto questa straordinaria foto. Io ringrazio tutti quelli che hanno mandato le foto sul profilo Facebook del programma. Paolo, poi Silvano, ma ringrazio soprattutto Roberto, che mi dà una spiegazione precisa della derivazione di Mandi. Me ne dà quattro. Allora, Mandi deriva sia dal latino mane diu, letteralmente rimani a lungo, cioè lunga vita, ma anche manus dei, cioè che Dio ti protegga, mane deo, letteralmente rimani con Dio, oltre ad essere anche una derivazione dal veneto della contrazione di, cioè per contrazione di comandi dal veneto. Si è capito qualcosa? È che c'era troppa roba. Grazie Paolino, che mi conforti sempre dicendomi che non si è capito niente. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile il programma di oggi: Federico Bernocchi, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Aina. La storia di oggi era la storia di Paolo e parlava di essere friulani. Quella di domani è la storia di Claudio e parla di ultra. Arrivati a Brescia con il blindato, una parte va direttamente allo stadio, mentre pochi altri, me compreso, vengono portati alla stazione per accogliere e scortare i tifosi veronesi. Arrivati in stazione trovo i classici autobus arancio in attesa dei tifosi, che sento avvicinarsi. Ci sono dei cori che rimbombano nell'edificio. Per me è tutto nuovo, compreso quegli sguardi poco rassicuranti e pieni di odio che mi ritrovo addosso.